con Luca. Già la porta a mezz'ora. Dimmi un po', come mi ricevi? Ottimo, qua c'è una regolazione qua. Ottimo Marco, ottimo. Va benissimo. L'amplificazione com'è? Si sente, bella, giusto, ottima. C'è per il Pucci anche, veramente. Va benissimo. Ascolta, e se parla a questa distanza cosa succede? Niente, uguale, non cambia niente. Va sempre bene anche così. 1, 2, 3, 4, 5, prova. Va bene. E il segnale? Vai. Allora. Sì, 25 più 30, 20 più 30. Va bene. La signora mi ha chiamato nuovamente per cena, va. Ci sentiamo magari dopo, grazie, ciao, ciao, buon divertimento. Ciao Marco, di niente, ciao, buona casa. Chi è? Roberto, ciao, già. Ciao, va bene, sto bene. Sì, stavo guardando la partita, nessuno c'è. Adesso sono andato io, poco fa, la chiamata, ma nessuno. Sono andato per le ciclette perché le ho finite. Non fumare che fa zimare. Piano piano, dai. Una giorno, ma ci vuole. Ma non da poco. Non si riesce a smettere. Dovrei cercare di smettere, ma cioè dalla zara 15 senti che ne fumavo per fare 2-3, ma. Come se così distante, c'è un effetto camera, sento. Guarda. Mi sento un po' distante come voce, tipo il fotocamera. C'ho il fotocamera, sì. Come distante, non vedo. Se ti lontano è normale dal microfono. E adesso come va? Fa un passaggio. Non mi piace a me questa specie di riverbero, non è naturale, ti distorce la voce un po'. Sì, non mi dà perché. Perché? Perché c'è stato un casa tua. Dopo casa mia, sì. Sì. Non sembrerebbe comunque. No. Te lo dico subito, parla. 1, 2, 3, prova. Cacchio, vabbè, ho messo tutto lo squelch a fetto, già si sente che sei vicino, entri in offerto. È l'unico segnale che entra, a parte Claudio, non c'è neanche uno di segnale che entra tutto a fetto. Ebbene, no, dove c'è muti e nulla. Non dovrei toccare, faccio un diretto. Ma tu non ti ha nessuno, non imparato io, non so cosa fa. La partita non ti interessa, te Gucci? No, non è guardo io. No, sono uscito stasera, vorrei sapere che sono toccato, però ho atteso, quindi se mi faccio fare la cosa, però non c'è nessuno. E oggi tutti guardano la partita. Milan Barcellona, eliminato il Milan 0-0, è finita per 1-0 all'andata del Fulvio Milan. Guarda, stavo dicendo, no, ma stavo dicendo tutto per nessuno, io perlomeno stavo dicendo. Anche all'ora di pranzo ho sentito nessuno, ero, mi sono riposato una mezz'ora perché ero un bel stanco e ho lasciato acceso, ho messo come zudrumidru e non ho sentito nessuno, un paio di camionisti c'era. Non mi interessa, se non li conosco non mi dà più nulla. No, ho acceso così, se sentite se c'era qualcuno, ma non mi interessa. Mi hanno anticipato un vento con il vino, se non gamma, io ho paura che ci fanno tranquillamente. Sì, anche con coso, con quello Peter Paolo, conosci quello Peter Paolo, Fortunato, l'altro, come si chiama? Quello che gira, sta a Montenurra, come si chiama? Luca. Loro si dicono una cosa loro e basta. E se avesse c'è Mario Manzo? Mario, ci sei? Salvatore. Cosa? Salvatore? Dice, forse entrava stasera. Magari è tornato. Magari è stata la passata anche lui. Ma chi lo è fatto? ti sono passato io a dare le informazioni sul campo. Ma quanto pare che se mi ha messo delle immersioni non serve a niente il campo, è scadente, e mi ho fatto spiegare esattamente da gente molto esperta la differenza dei cavi, e ho visto le caratteristiche certificate, cioè tutto quanto, ho capito più diciamo com'è tutto il discorso, poi me l'ha confermato un tecnico, uno che se ne intende. Allora, il 213, il diverso dall'H100, a parte che nel 213 esistono due versioni, esistono il normale 213.000, che sarebbe militare, norme militari, che è quello che mi comprerò io, e l'H100, l'unica cosa che è cambiata uno nell'altro, che l'H100 resiste appena più di potenza e lavora sulle frequenze alte, sugli HF, a parità di frequenze, diciamo fino a 50 MHz non c'è differenza, è la stessa precisa identica cosa, l'H100 è più rigido di riflesso e basta, però il 213.000 a livello di isolamento è superiore, perché c'è una certificazione superiore per gli acidi eccetera eccetera, sta di fatto che i militari, gli enti militari comprano solo 213.000. Allora, il 1058 per deboli potenze va benissimo, non c'è niente da dire, naturalmente è un sistema di isolamento molto inferiore a quei cavi lì, però va più che bene, niente da dire, per deboli potenze, per brevi tratti va più che bene, l'unico problema dell'RG58 è il discorso dell'isolamento, è quello lì, perché si deteriora facilmente il cavo. Vabbè, non hai visto, io quando mi stavo andato di mamma, c'avevo la grappina, con l'RG58 ho tutta roba di 15 anni. Allora già, il problema è la calza interna, io ti faccio vedere dei cavi, RG58, se c'è entrata umidità, tra l'altro vicino a 4 metri di profondità, la ruggine, se ne scende, perché è talmente sottile l'isolamento, è una cosa impressionante, ma il 213 non ce la fa a passare, se ti può passare qualche centimetro e non prosegue, ma l'RG58 è allucinante. L'acqua è entrata perché non è stata trovata la pena all'inizio, perché se avessi trovato la pena non c'è stato un buco di acqua. Gaffa. Ma vabbè, mi hanno spiegato anche dei trucchi, cosa fare per evitare tutte queste storie qua delle situazioni dell'acqua. Sconsigliato assolutamente di mettere vulcanizzante, tutti quelli che fanno certificati di lavoro me l'hanno sconsigliato. Perché? Perché sì, non è necessario, se si fa un tipo di lavoro mi hanno consigliato cosa fare, se capiti già ti spiego, mi hanno detto un paio di trucchi che sono, non ci avevo pensato, ma sono molto efficaci. In FM l'ho sempre vulcanizzato e l'ho riaperto dopo tanti anni, diciamo roba di 15 anni che l'ho riaperto, ce l'avevo conservata l'antenna e ti faccio vedere, non c'è un filo di umidità. Però mi ha detto no, è meglio lasciare senza, mi ha fatto vedere cosa devi fare, che sistema devi adottare per evitare quello lì. Dice non è necessario, se lo vuoi mettere sì, ma con questo sistema che mi ha fatto vedere mi ha detto non è necessario assolutamente, è inutile, è una cosa inutile, perché si fa una specie di cose, di intubatura, un coso particolare, beh, bisogna averlo spiegato sul posto, non è roba da dire così. Di soldi a Giumetti di nuova costa 50 euro la gran pencola grande. E 50 euro sono 100.000 lire adesso. E allora sono stata con la grande lì che ci ha ragazzi al 65, mi pare che avevano pagato 62 lire, non parlo di ore. Però aveva ragazzi al 65, stava un cammino, solo che l'unica problema che aveva è che faceva la politica. Ma l'hai venduta a 40.000 lire o 40 euro già? No, sì, no, no, ho capito che aveva detto 40 euro, infatti ho detto che è un fuoco gruppo, la venduta, se è meglio offerta invece sono 40.000 lire. No, 40.000 lire non c'è la cosa, allora, lì ci stanno comprando 25 anni fa, l'anno fa. Gaffa, gaffa. Mi piace questo affare, ti fa un po' saturo, prova a toglierlo con questo effetto riverbero. Avanti. Buonasera, sono Tore. Ciao, perché sta uscendo con queste B forte? Scendi, tu risali a 9, forte, non l'ho mai visto così. Eccetera eccetera, l'ho visto dal vivo al cavi, i due cavi è molto ma molto migliore perché c'è un isolamento a nome militare, se lo vedi è tutta un'altra gumba rispetto a quello di Menchione. Quelle Menchione addirittura detto, lo costruiscono di lei a Sassari ed è molto ma molto scadente di qualità, l'isolamento non vale niente. Ah, no, non lo so, aspetta, adesso ti dico quello che c'è sotto io, allora io l'ho preso lì e l'ho sentito stasera, stava trasmettendo, sono andato là Melchione, ne ho approfittato, ma non sono preso quei 60 metri, me l'ha lasciato quanto mai detto tu, quando abbiamo telefonato insieme. Aspetta, dico, quello c'è scritto nel mio, intanto ce l'ho quello avanti. Deve essere scritto in verde, Salvato, 213.000 in verde, mentre l'altro è scritto in bianco, c'è scritto solo 213. Dani, ci sei ancora? Vediamo se c'è Mario. Mario, ci sei? Già, è scritto in verde il mio. È scritto in verde, Salvato. Guarda se c'è scritto 213.000. Ah, c'è scritto Coax, tutto in verde, cable, RG, 213, e poi c'è scritto, c'è un'altra cosa a fianco, non la leggo, vuoi essere sincero. Ah, io l'ho scritto in carta a te. Oh, ma scusa, Salvato, cosa hai detto? Aspetta, che c'è scritto qualche cosa con 213 in verde, ma non riesco a leggerlo. Guarda l'espressione che c'hai tu, c'è se ce l'hai lì. No, se l'ho in officina, no, no. Comunque se è verde è il 1000, perché c'è scritto 213, o 1000 o M. Molte volte scrivono M. Faccio M allora, eh. E allora, se è scritto in verde è quello a norme militari, ed è il migliore di tutti, il miglior cavo che c'è in circolazione. Sì, sì, no, verde è verde, e poi mi guarda lo spessore che c'hai tu, e lo puoi vedere. Anzi, aspetta, forse qua lo vedo meglio. Dove c'è il microfono? In cuffia. Allora, vedi un secondo. Sì, sì, infatti, no, non c'è verde, c'è scritto in verde, Salvato, è il 1000, non c'è da sbagliare, perché l'altro è 213 normale ed è scritto in bianco, o in rosso, però il verde è quello, il 1000, il migliore che c'è. Se vai da Fusaro, Salvato, ci sono tutti i tipi di cavi, è arrivato da poco, con tutti gli spaccati del cavo, il cavo è spaccato, in modo che vedere la calza di isolamento, lo spessore del centrale, eccetera, eccetera, ed è, si vede proprio la differenza a occhio. Sì, c'è scritto in verde, c'è scritto OH c'è scritto. Sarà una M invece quella. Come? Sarà una M al posto della H. Sì, non è che ci veda bene, Polacca. Dai, guardalo tu, domani lo vedi, perché la spezione ma c'ho del sotto dall'altra parte, e non voglio entrarci. No, ma vedi, a chi lo prendi tu? Vabbè. Appunto. volte che ho chiesto da coso, da Grassi, non c'è soltanto 213 normale e lo vuole a 1,40, invece da lì devi comprare una matassa da 100 metri, scontato questo. Il 1000 ne vuole 1,60 euro, lo stesso se ne prende una matassa da 100 metri e non ce l'ha, per cui sconto non me ne sta facendo. Da Fusaro 1,50 da scontare, è andato un amico e l'ha preso a 1,25 e te ne dà quanto le vuoi, anche mezzo metro. Allora vai da Fusaro e così ti prendi quello che serve e che serve. E dici direi pagare il metraggio giusto per non stare anche a fare calcoli robe. A me prendo 35 metri. E poi un'altra cosa importante, l'H100 è molto più rigido del 213.000. Verificato come proprio a mano, cioè una salbuba. L'altra cosa è che l'H100, meglio del coso, del 1000, lavora per frequenze oltre 50 MHz e superiore, non di tanto, per dire di questione di decimi, non stiamo parlando di unità, di decimi di decibel ogni 100 metri, cioè quasi impercettibile, però tiene un po' più di potenza l'H100, e a livello fino a 50 MHz sono praticamente identici, anzi addirittura il 1000 è superiore a livello di guaina esterna, c'è una guaina resistente al fumo e alle alte temperature, poi non so, c'erano scritto un sacco di cose, adesso non mi ricordo. Asco, ma perché ne Stati Uniti si stronzate enormi come montagne? Ma usare un imbigliarmi robe, a chi non serve? Se dici tu che fai una sassa di partito, una volta cazzo me ne ha venduto un po' a me e la cui faccia è dove? Occhio che non era neanche marcato. Io ti posso dire, io l'ho visto, è marchiato 1000, arriva dal continente e deve arrivare a fine settimana. Quell'altro che stai dicendo tu è quello di Melchioni, non è quello di Fusaro, quello scadente che fa la stessa è quello di Melchioni ed è una gaggata, te lo posso garantire perché c'è gente che l'ha verificato, è gente sicura. Qua, a me me l'ha venduto Fusaro la volta e ti sto dicendo che era una cagata. Infatti, se non lo vedo e non tocco con mano, non mi dico più capo da esso. Guarda che sia marchiato, perché se no non serve a nulla, e poi controlla il capo, già si vede se è buono o no. L'ho già visto, Natalia, ti sto dicendo, l'ho visto in mano, l'ho preso in mano io il cavo e ti posso garantire è marchiato, c'è scritto RH213.000 in verde, l'ho preso in mano, è abbastanza morbido come cavo, molto più morbido delle RG8, perché io le RG8 ce l'ho qualche pezzo, ne ho una quindicina di metri, è molto più morbido e se tu tocchi la guaina rimane morbida, non è secca come le RG8 e ti gioco di rende quel cavo lì è buono, ma il fatto che loro lo utilizzano, Fusaro lo vende a tutti gli enti, prende solo quello lì, perché gli enti di polizia e carabinieri vogliono solo quel tipo di cavo, non utilizzano nessun altro tipo di 213, solo il 1000 utilizzano, per cui hanno fatto una scelta di utilizzare solo quel cavo lì, non le ordinano più come lo ordinavano prima altri tipi di cavo, solo il 1000 ordinano. Infatti mi ha detto aspetta che arriva, probabilmente arriva venerdì, ti telefono e te lo dico, così mi dici quanto ne vuoi te lo taglio direttamente. E quanto lo vuole al metro? Guarda, a me, quando ne abbiamo parlato così velocissimamente un paio di settimane fa, mi ha detto di costa sull'€1,50 al metro. Però già ci mettiamo d'accordo. Un amico che me l'ha fatto vedere oggi, lui l'ha pagato 1,25 euro al metro. Ed è un prezzaccio, perché Grassi ne vuole 1,60 euro comprando la matassa da 100 metri. È un prezzaccio, sì, è 1,25. Però che sia quello, indubbiamente il 1000 è superiore a tutti. Perché già l'ho visto da quello delle cunce, solo è quello delle cunce è esauso, non mi ricordo quanto mi voleva al metro. Sì, no, ma lì non si, quello è farmacia, non conviene andare. Ti sto dicendo, Natali, io ho visto tutti i cavi, adesso mi è arrivato lo schema con tutti i cavi, sono esposti e messi all'interno, e ci sono tutti i tipi di cavi, addirittura c'è anche il Ceflex, che sono aperti, tu ti vedi la guaina di isolamento, lo spessore, ti vedi il nylon interno, ti vedi il centrale, ti vedi la calza, ci sono tutte le differenze, si vede a occhio nudo la differenza del materiale, il 1000 è tutta una sciaguba, cioè rispetto a tutti gli altri cavi non c'è confronto, meglio di quello c'è solo il Ceflex, però è un cavo costa, quanto costa 8 euro al metro il Ceflex e non si usa mica a livello amatoriale. E per i punti orario stesso il Ceflex. Vabbè, cosa ti volevo dire? Il 1000 è il migliore di tutti che io sappia. Però bisogna essere certi che ti danno quello. l'H100 non stava spiegando uno che fa impianti di un certo livello, ha detto l'H100 dipende da cosa devi fare, se devi lavorare oltre i 50 MHz è leggermente superiore al 213, perché è dato per certi altri tipi di frequenze, cioè arrivarsi da 200 MHz e lavora meglio, però a livello di conducibilità elettrica, di cose, di tutto è preciso identico al 213, solo è un po' più rigido e basta. E poi, beh, fatto i particolari, vabbè, adesso se devi parlare di discorso di potenza, viene fino a 5.000 volt, mentre il 213 tiene 2.000 volt. Però stiamo parlando di cose di utilizzo di particolari. A livello di 27, cioè per utilizzarlo a 27 si equivalgono sia uno che l'altro, però l'H100 è più rigido, per cui è sconsigliato. Quindi aggregare da meritto. Sì. Perché è morbido, morbido, morbido quello che ho io. Cosa vuol dire morbido? Evidentemente non lo conosce né lui neanche quello che gli ha detto, perché l'H100 è meglio capo che c'è in assoluto, da 0 a 30 mega. E chiudo il discorso. Buonanotte a tutti. Ciao Fla. Ciao Claudio. Ciao Claudio, sì sì. Sì sì, buonasera a tutti. No, verso passare con le reti, mi sto addormentando, sono stanco, non ho crepato oggi. Che hai visto anche tu quando sei passato, mi sto lamentando, guarda, c'è un rischio di non ce la faccio. Ok, dai, Robert, ci sentiamo domani, che domani ci telefoniamo. Ciao, ci guarda a tutti, vai passo in QRT, ciao. Ciao, magari tu vai la benedizione del Bassocca. Guarda, sono crepato, guarda, oggi neanche il cane, non si ricorda, non sono, c'è cioè, ragazzi, stavo facendo un corso. Andrea, c'è stato un attimo, ha visto anche situazione, Andrea, anche Gianni c'era, Andrea, a parte all'altra, all'Antonio, alla Speratrice, al telefono, alle balle di Grigore, non ti garanti, no, guarda, veramente, mi sto lamentando, mai, la radio, sai che per me stare in radio è la cosa, l'accendo qui, non lo sto accendo, quindi, è proprio che faccio una figura di addormentarmi così, non solo mai mattina, ma lo stesso la giornataccia. Ok, ci sentiamo, dai, circolare a tutti, riprendete voi, ciao Gianni, Claudio, Natalino, Roberto, io me ne passo la in QRT, riprendi Roberto. Ciao Sabato, buon tutto, buon recupero per domani e alle prossime, ciao ciao. Ciao Sabato, ciao Sabato, buon tutto allora per domani, alle prossime. Ciao ciao, buon così, ciao Natalino, ciao a tutti quanti, sono entrati. Ciao già. Quello poi stavo ascoltando una cosa, secondo me è meglio che ti prendi anche un tantino in più per fare le ispezioni, non prendere due liste giuste. Sì, sì, no, va bene, prendo, a me 30 metri in base ne avanza, ma ne prendo 35 metri, ma ne ho altro di cavo io, ne ho un paio, una decina di metri Salvatore pure. No, per fare l'ispezione perché è meglio che vi faccia lo stesso cavo. Sì, diciamo le macchine sì, però tieni conto Mario, già, io non ne ho potenza, non, anche se uso le reti 58 non è che cambi più di tanto, giusto? Se metti i cavi rigidi è quando utilizzi di potenza, cioè io non ho amplificatori o cose del genere, io esco con 3 watt, addirittura con il comportatore 1 watt, figurati. Io dico che cambia, sia in ricezione che in trasmissione, e però come siamo? Cambia l'impedenza, certo, cioè, a frequenza ti cambia. Ma sicuramente qualche cosa di perdita, cioè come quando attacchi il rosmetro, un 0,2% lo perdi, però stiamo parlando, se vuoi essere un perfezionista allora devi metterti i connettori di un certo tipo, tutto quanto perfetto, eccetera, eccetera, però stiamo parlando di un uso relativo, diciamo, quello che sto facendo io, un uso molto, ma molto, diciamo, passionale, dai, non è un uso professionale, per cui anche se c'è appena di perdita, sinceramente non me ne fotti nulla, non devo fare cose professionali, non mi interessa. Ma non ne hai perdita se metti quel cavo lì, la perdita la puoi avere da pelle scadenti e basta, è buono, dopo se metti pelle buone non hai perdita neanche da lì. No, sto dicendo fare un collegamento per dire se metti un commutatore antenna fare utilizzi le reti 58 anziché il 213, qualcosina perderà un 0,2% per l'inserimento di questa roba qua, però è cosa vuol dire sia? No, ogni PL è perdi, ogni PL che metti in più hai una perdita, questo è poco ma è sicuro. E da voi tanti cosi non attaccare al trasmettitore. Se può fare roba attacchi è meglio è, anzi, gli attacchi l'antenna diretta è meglio. Sì, no, quello è vero, naturalmente, se lo va a metti è più stabilità. No, io sto parlando del discorso, se devi mettere l'accordatore o il wattmetro o il rossmetro, se tu usi per fare la connessione un RG58 o un 213, la perdita, la differenza tra uno e l'altro dei due cavi è una cosa infinitissima, per cui alla fine non è che me la futti assai. Certo, se tu devi fare un impianto professionale, un ponte radio, dove devi guardare l'ultima fesseria, l'ultima rondella, l'ultima vite, a quel punto utilizzi, devi fare in modo che tutto sia alla perfezione, ma non è il caso mio, io non sono così perfezionista. Infatti, ma per dire, se si è supportato lì, se si sa che è stato avere. Assolutamente, io volevo mettere il cavo grosso, perché volevo fare un lavoro definitivo, parliamo dall'antenna fino al trasmettitore, però dentro casa, una volta che sono arrivato dentro casa, se voglio mettere l'accordatore e fare un collegamento dall'accordatore al baracchino e uso una RG58, non succede nulla, però voglio mettere un cavo, perché le RG58 andava tutte bene per me, però non è un cavo definitivo per le intemperie eccetera eccetera, si zecca, diventa una gaggata, voglio mettere un cavo ad alta resa di isolamento, non più, oltre che resa di perdita, e abbiamo un isolamento molto superiore a quello che fa la RG58, in modo che tra 10 anni, se mazza fancura, il cavo è ancora buono, mentre la RG58 tra 10 anni se non altro. Sì, vabbè, tra 10 anni anche l'RG213 ci deve buttare, perché c'è la migrazione del rame, capito, vai? E quindi praticamente fra 10 anni è terribile. Per cosa si crede che li cambiano ogni 10 anni? Anche se sono buoni, lo buttano via. Per quel motivo lì. Magari prenderai qualcosa, ma mi dirai, tu mi senti che il RG58 tra 10 anni non esiste più fisicamente, mentre il 213 fisicamente esiste, mi dirai, non ha la stessa condizionabilità del RG, come si chiama, di quando è nuovo, di quando l'hai messo, però sicuramente un po' di cose, di condizionabilità elettrica ce l'ha sempre, molto ma molto superiore a quella che potrebbe essere dell'RG58 dopo 10 anni, sempre che si trovi ancora. Infatti, sempre che si trovi ancora. Però per dire, quindi sia in trasmissione che in ricezione fra 10 anni con quel cavo lì. Infatti quando nei punti radio, negli impianti di tipo quelli della polizia di carabinieri, perché lo cambiano ogni 10 anni? Perché c'è la migrazione, la titola, e quindi il cavo non risulta più sempre al 100% come era prima, la titola. Veramente d'accordo, vabbè, ma non sono, ti ripeto, non sono così perfezionista, a me l'importante è che il cavo non si marcisca, perché ne ho brutte esperienze, io ho cavo di SAS che ho preso un sacco di soldi che si sono rovinati, la guaina esterna, non il cavo, la guaina esterna, là dove ho dovuto intubare e mettere dentro delle guaine antimartello, siliconate, in modo che non prendano raggi ultravioletti, e così mi stanno durando un pochettino di più tutte le alimentazioni dei polarizzatori eccetera eccetera delle antenne, sono tutti intubati, almeno parlo dell'antenna grande e quella grossa. Nella piccola, nella 120 non è che mi interessi più di tanto, però ho fatto in modo che almeno mi dura un po' di più il cavo. Io dopo 5 anni il cavo dell'antenna, quello che era migliore di tutti, la iniezione di gas, che è il topo della ricezione via satellite, tu lo controllavi ed era più grande più svetto. Adesso l'ho messo intubato, qualcosina di più dura. Diciamo però sono un cavo di spessore un quarto di quello che può essere un RG213, per cui l'isolamento che ha un 213 è molto ma molto superiore, dovrebbe durare un po' di più da. E fra 10 anni è sempre in quello fatto lì l'isolamento. E l'interno che va fatto benedire, cioè il rame, capito? È quello che ti voglio dire io. Vabbè, ma per l'uso che ne facciamo noi, figurati. Vanno più che bene, riprende già. Io dove ci 58 a casa di mamma nata lì, facciamo la Gran Plena, ho tenuto quasi 15 anni. E nella Giugella dove funzionava era un volume stazionario sempre, tranquillo. Ma passava nella casa e scendeva direttamente giù. Sì, vabbè, tu non te ne accorgi così, però dopo 10 anni, qualsiasi cavo, è meglio che lo butti via, capito? Secondo me. Non è sviluppo di modalità, però perdi, sia in ricezione che in trasmissione, perdi. Questo è poco ma è sicuro. Hai capito cosa dico? Tu, già quando cambi da RG58 a RG213, noti subito la differenza. dei guadagni sia in trasmissione che in distruzione. Se noi vi subito il conto, mi fui Roberto, basta che adesso ti segni i segnali di noi, che adesso sta l'RG58 e di quelli magari che sente un po' più lontani e cosa, no? Ti segna il segnale lì. Poi una volta che cambia il cavo vede la differenza. Come sapere quanto spende Roberto in quel cavo? E se le ho una 1,25 vi conviene prendere una mattata in due e ve lo dividete. Hai capito? Magari lo pagate di meno, prendendomi le una mattata da 100 metri completa, lui non è costretto a tagliarla. Capito? E ve la va intera la, diciamo così, la mattata. E lui li vende i 100 metri e ve li dividete, logicamente pagate molto di meno. 90 centesimi costa. E infatti non mi figlio qua. Se mi dividono una cassa, gli dati uno sconto ulteriore, diciamo così. Non vedo dove lo comprano. E bisogna vedere anche dove lo comprano, gli auguri di lì. Io che accetto 90 centesimi ancora, quell'altro che abbiamo preso invece ce l'ha fatto 50. Non ve li sto soltanto, sostanzialmente. Comunque non dite tronzate, state dicendo quelli tronzate, con i chiavi. In che tronzate stiamo dicendo? Stiamo dicendo quello che è. Non mi sembra una caratteristiche tecniche, non è così la realtà. I2 è superiore, non l'altro bugavo. E il 58 giustamente è una cavolata di cavo. Il 58 è un cavo per giocare i bambini, non per fare radio. Certo, se c'è un baracchino da 4 watt, si dura anche a metà. Ma c'è potenze superiori ai 10 watt, in 5 anni te lo manca il cavo, perché l'assorbimento dell'apparato è superiore. Quindi usufruisce sempre sulla cavità del cavo. Perciò i cavi non si tengono più di 5 anni, massimo 5-6 anni, poi si cambia, qualsiasi tipo di cavo. Ehi, ma io glielo stavo dicendo, no? Addirittura c'è la migrazione, c'è del rame, quindi però per quello che lo usiamo noi, diciamo, che non usiamo potenze, non usiamo niente, già dura, capito? È logico, da Rigo per esempio che ha cribato l'antenne, i filari li ha dovuti cambiare perché li ha corsi. Ma perché? Perché vuol dire che ha usato più di un tanto di watt che poteva usare, capito? È logico che lui li usa in un altro modo. Io, sono cose naturali quella. Sentire dire che un 213 è superiore a un H100 vuol dire che qualcuno non sa neanche di cosa sta parlando. Capito? Che l'H100 è un bipolare. Affilare al centrale in rame rigido, mentre 213 è trecciato ed è un cavo solo, quindi, ma poi anche le dimensioni sono diverse, la carta è doppia, perciò le informazioni non mi risultano esatte. Va bene, fate quello che volete, sono qua. Ciao Natali. A proposito Natali, sto dando l'85, prova a chiedere al Salvatore a qualcuno se interessa, mi serve un altro 60, se ho preso un'altra radio e non mi va bene con l'85, capito? Quindi mi serve un altro MC60. Se ti capita che senti qualcosa fammi sapere, fammi uno squillo che ti chiama, capito? È nuovo l'85, costa 270 euro, mi pare, lo piano là. Però non me ne frega niente, c'è qualcuno che ha un 60, anche se il prezzo è inferiore, lo prendo lo stesso. Ok, ciao, buonanotte, sentiamo, se prendi tra gli anni. Ehi, ciao, padre, ciao. Andare. Ciao, padre, te lo No, volevo interrompere Claudio, il discorso non è, non, forse non l'hai seguito bene. non ho detto che il 213 è superiore, anzi non è quello il discorso, ho detto per certe cose si equivalgono, per certi tipi di cose, se vuoi fare altri tipi di cose l'H100 è superiore, sicuramente perché c'è una resa superiore su certi tipi di frequenze e su certe potenze, però per un uso limitato come può essere la 27 le differenze sono nulle, non c'è, perché ho visto le tabelle sono identiche, non ci sono differenze di resa. Ma io ti rispondo dicendo che il 27 per uso che ne fai tu e che ne state facendo tutti va bene anche la 1058, cioè per quello, capito? Perché un H100 con 4 volte te ce lo spendendo soldi, cioè con un baracchino te ce lo spendendo soldi inutilmente. Per capirci, diciamo, per avere maggior ricezione e maggior guadagno sia in una che nell'altra. Però siccome il baracchino riceve fino a un certo limite, trasmette fino a un certo limite, non otterrai mai la differenza. Sì, hai detto bene, quello che ho detto io sono le fove. Certo, se tu devi, sei un radioamatore, lavori su frequenze superiori ai 30 MHz, dove hai necessità di un cavo che conduca anche quelle frequenze lì, sicuramente è superiore, nessuno dice il contrario, però tanto costa un H100 rispetto a 213, costa molto ma molto di più. A te vuol dire che hanno fatto un prezzo a regalo, però se tu vai a comprare al negozio, costa 3 volte da un H100. Io ne avevo 200 metri, l'abbiamo preso tutto perché 100 metri li ha presi Natalino, 100 metri li abbiamo presi in Francia, a 50 centesimi, quindi, però sto dicendo che c'è l'H100 anche a 90 centesimi. Vabbè, ne abbiamo già parlato, sono dopo 10 a 3 secondi. Affare, riprendi tu Natalino. Che cazzo, però che non è quello di quella cassetta mio qua. E non ne abbiamo molto, io ne ho una ventina di metri e Franco mi pare ne abbia ancora un 30-35 metri. Non so Franco, mi pare debba fare un'altra calata, a quanto mi stava dicendo oggi eravamo in LTD, infatti stavo chiamando ma no. Non hai risposto, eravamo tutti lì, c'era anche Marco. E niente, non so se l'ha scelto lui, bisogna che glielo dici. Non sapere del microfono che mi interessa, capito? Questa è un'altra radio. Mi ha preso due radio, un Marco, un 68 e un altro tipo questo là. Capito? E quindi stiamo mettendo i microfoni. Però va molto meglio 60 rispetto all'85. La tonalità microfonica però a me piace molto di più. Va bene. Vedi, cerca, fai, compra. E poi ci direi i risultati, anzi direi i risultati. Ma almeno non confronta chi non viene a Sassari, non ce n'è da nessuna parte. Grassi deve arrivare, c'ha solo 213 normale, H100 sarebbe da ordinare, tenibile a 100 metri. Fusaro non è, GBC non sa nemmeno cos'è, per cui per non aspettare mi prendo 213 l'ML, il 1000 è questo che deve arrivare. Di emissione al 50% dell'H100, quindi io ho comprato l'H100, ma Natalino ce l'ha e Franco ce l'ha, sono carri che lavorano bene e che cambi fra 10 anni. Vabbè, fai tu, i quattrini sono i tuoi, le radio sono le tue e le capacità sono le tue, a me non è che interessa più di tanto. Io ti ho consigliato l'altra volta di prendere un H100, te lo ordini da fuori, c'è un cavo eccezionale che con una durata del 213 se lo mangia, e non è assolutamente vero che è rigido, perché Natalino ce l'ha, io ce l'ho, Franco ce l'ha, e non è assolutamente rigido, gira da tutte le parti, e va molto, molto bene. Va bene, riprendi la stagia, fai tu, arrangiati tu, ciao. Cappa, vai Gianni. Anzi, mille, perché non è a 50 ohm, qua. Cos'è? Ma il 1000 non è a 50 ohm, ma 60 hai detto che è. Ma certo che sì. E no, va bene. Ma lui ha detto che va bene quello, quindi. Certo, poco fa sto sentendo un sacco di frontate in questo cazzo di radio, in questo cilindro. Aspetta, il 1000 o il 1000? Cosa state dicendo? Non ho capito. Il 1000. E se non è a 50 ohm, non è cavo per quando. Cos'è questo 1000? Mai sentito? Io non so neanche, io non ho parlato di 1000, io ho parlato 213 mil. 1000 vuol dire norme militari, non 1000. Norme militari, conosci quali sono? Sì, ma norme militari parliamo di isolamento. Il cavo è a 52 ohm, è preciso identico al 213 normale. Soltanto cambia la guaina. Sono identici, c'è una guaina più grossa che resiste agli acidi e a certe sostanze. In più c'è la lamina in alluminio sotto con la nera. E boh, il cavo è identico. Solo la guaina cambia ed è a 52 ohm, l'ho visto nelle tabelle, ti sto dicendo non è che l'ho detto io, l'ho preso le tabelle e ho confrontato tutti i dati delle tabelle. L'H100 c'ha 50 ohm come quello 52 ohm, solo che tiene 5000 volt anziché 2000 come 213. Vabbè, io le tabelle ce le ho in capo, correggendo cose diverse, comunque se ti c'è una tabella me la farei vedere, vedere se è come quella. Ce l'ho io, ho preso di lì da fusione, ci sono tutti i cavi, espulsi, nuovo, è arrivata da poco perché da l'altro giorno non c'era, ci sono dispaccati dei cavi e il 1000 cambia l'isolamento ed è 52 ohm, poi c'è il 214 che è a 75 ohm, ma è una sagosa adesso. Non so, a me non mi risulta comunque, ti ripeto, quando mi farai vedere quello che ti hanno detto o questa tabella che hai visto, perché io so che a 70 ohm, a 72 ohm, no a 70, e anche a 52 ohm avrai sempre delle grossissime perdite. Vabbè, vedremo, poi vediamo che ti dica. Perché vuole a 50 ohm, a 52 ohm è già sbilanciato, vuol dire Claudio. Allora, il discorso 50 o 52 ohm dipende da, dove, da come fanno le tabelle, qualcuno arrotonda a 52 o a 50, però la misura esatta sono 52 ohm dei cavi, qualcuno scrive genericamente 50 ohm, come le altre TV scrivono 73 ohm o quasi che 75, però la capacità del cavo, lì come si chiama, il valore del cavo è 52 ohm. Ehi, vabbè, hai ragione. Hai ragione, non c'è problema, se ce lo fai puoi farmi vedere i risultati, poi ne riparliamo. Non ci puoi mettere un cavo a 75 ohm se c'è l'apparato a 50 ohm, sarebbe giusto, cioè no, le stazionali ti saliranno a 1000. No, ma anche con 52 ti accorgerai quanto succede. Vabbè, vedremo, poi vedremo cosa succede, dai. Dai Gianni. Ma io per il momento che tengo quello di 58, già stanno andando bene, grazie a Dio. Poi quando si consuma questo vedremo di cambiare. Mario Marcia, non si è sentito? No, è d'accordo. Io ci sono qua, ci sei tu. Lo strano, normalmente la moto è entrata. Vai tu una salita. Sì, magari ha avuto una giornata pesante e si è addormentato. Capito. Anche Salvatore se si era crepato, ma io... Sì, vabbè, no problema. No, ma io ho riscontrato questo H100 che lui è molto morbido. È meglio del 213 a 2000 volt. A chi viaggia a Udu, l'RTO, il 213 è anche più rigido di quei casi. Cosa si può dire? Vabbè. Vedete, questo che io non è affatto vero che è rigido, perché io te lo faccio toccare questo qui e ciò qua e... Ed è un buon caso. L'ho messo nel bifolo pure. No, no, forse non ci siamo spiegati, io non ho assolutamente detto che sia un cavo scadente, anzi, sicuramente nel complesso è superiore a tutti i cavi. Io ho detto soltanto col discorso del 213 che non è così tanto inferiore, è solo quello il discorso. Sì, il 213 per qua tanto non usivate, non hai amplificatori, non hai niente, già va bene. Sì, a voi. Però io so che c'è il 1000 proprio, perché quello delle conte me l'aveva fatto vedere fra l'H1000, che in sostituzione dell'H100 mi stava dicendo. Però io non ho controllato a vedere che impedenza ha, capito la cosa che volevo dire. Non l'ho controllato perché non mi interessava, me l'ha fatto vedere e basta, è tutto. Però da lui non ne avrei mai comprato perché ne voleva una cifra esorbitante. Però se andava a controllare, già me lo controllavo e sia a 60 ohm come stavano dicendo, non da questa in ordine. Qui a 50. Se c'è la parata a 50 ohm, se metti 75 ohm e vai fuori impedenza. Non so se neanche con la quadratura si riesce a si fermare. Ma penso che si salgono molto le stazionarie, non lo so. Io sinceramente non l'ho mai provato e quindi non so così. Però cosa ti voglio dire? Ma per qua va bene, per quello sviluppo che ne dobbiamo fare noi, tu un 27, va benissimo, il 213, anche il 58, se non hai molti metri, il 58 va bene. Certo, se sono stati 30 metri, giustamente noi gli andiamo a serena. Però se uno vuole ricevere e trasmettere bene, si mette il 213 e ha finito. Ribadisco la fase, io sto cambiando l'RG58, per me va benissimo per l'uso che ne faccio io, lo sto solo cambiando perché devo sollevare l'antenna e voglio fare un lavoro in modo che piazzi il tutto e non tocchi più nulla, che il cavo sia più robusto, più resistente, perché per portarmi un cavo grosso in casa ne potrei fare 10.000 volte a meno, non è questione di me che a scegliere, un cavo sottile preferisco 10.000 volte l'RG58, il problema è che col tempo si deteriora, un paio di anni tre durati, l'RG213, l'RG8 e tutti quanti hanno un isolamento molto ma molto superiore al 200, senza considerare le perdite, superiore all'LG58, solo per quel motivo me lo metto, se no mi avrei tenuto 10.000 volte il 58 già piazzato, già fuori fatti nella finestra, già tutto fatto, mentre con l'LG213 mi tocca allargare i buchi. Purtroppo devo fare perché non devo mettere spezzoni, se no se non ci fossero stati i discorsi di perdita avrei lasciato un pezzo di 213 dentro casa, dal buco della finestra l'avrei messo il marilotto e l'avrei portato alla legge 58, ma a quel punto c'è una perdita, è tanto uguale farlo tutto un pezzo. Sì, sai già, 2 PL, più il marilotto, più il PL interno, un gabbiele che torna è una perdita, va più conto, specialmente se metti di quelli che non sono buoni. Sì, no, infatti anche il PL mi cerco quello buono, quelli professionali, diciamo, superiori, solo che non ne aveva fusato, li sta aspettando anche lui. E chi guida le aziende che danno altre, non chi si va via Edu, ma le aziende, gli altri non sono sigillati, in bustina, perché io ce li avevo quelli lì, e sono certi PL e poi sono qualcosa giallo, invece che marrono, come quelli che stava vendendo lui, che in un mese di CBL mi si sono imballati praticamente, perché mi si trovi su via la clinica e mi si impari a rubuntare gli UBL, ma gli CBL, se lui si vuole questa faccia a Edu, a vedersi nei semilautenol. Infatti io sono andato a chiedere l'autenol, però non ce le aveva, dice di stare aspettando. Però tieni presente, quelli in macchellite sono molto auto superiori a quelli in teflon. Io quello in teflon ho saldatore scaldando il cavo, perché stavo all'inizio mettevo la calza, saldavo anche la calza, si è sciolto l'accolto, la parte di in teflon, ed è una gaggata, non valgono niente quelli in teflon. Però quelli in macchellite sono molto superiori. No, costa 5 euro l'uno, non costa 1,50 euro. Infatti, li metti e ce li hai definitivi, tanto non è che ne rimuni assai, ne metto quello sopra l'antenna e quello al trasmettitore, ne metto 2 e basta, se non rimuni 40, se devi comprare 40 a quel punto non fa più, io li metto solo quello di su e quello dell'ingresso dal trasmettitore, ne metto 2, desidero e finito. Immagina tu quanti ne ho messo io. E beh, tu quante antenne vai, Claudio, ne avrai 7, 8, 10, quante ne hai? 12. Fatelo conto, che è un capitale, tu con tutto il BL che fai tu, ti compareggi la stazione mia. Solo il BL, ti prendo di un solo. Però vabbè, cosa gli ha preso in fiera, gli ha pagato una cavolata, 1 euro mi sembra l'uno va a pagare, però in fiera, io non potete fare se ne pagate 5 euro l'uno, sì. Sempre i raccapi, a chi non devo mai sapere mai, che sono sigillati ad 1 a 1, in bustina, perché te li avevo io. Infatti ne ho preso una busta intera con 20 PL imbuttati dentro, ho pagato 20 euro, qua ci volevano fatti il conto, quanti soldi a 5 euro l'uno. E infatti sono pure senza riduttore, perché sono senza riduttore e gli altri, non capite, sono proprio per RG213 o H100 quelli lì, roba a chi. infatti un amico qua, ma mi ritengo stretti, perché se devo prestare un'antenna o un SLR, gli metto qui due altre, non che so. Però migliorati un amico, non ne ho provato a comprarli qua, vale, però. Ne ho un paio di quelli in bacchelite e dopo ne ho due altre nel frutto, però gli altri non sono malcati pure, capito? Una volta se le fanno a pagare sono di qualità, diciamo non sono una mazza di bucaccionata di quelli in telefono. Quelli in telefono secondo me è una cosa ridicola, non so come fanno a metterli in commercio, appena attacca il giardalore e saldare la centrale, scalda il metallo e ti scioglie il telefono, una gaggada proprio, una cosa vergognosa. Ma quelli che state dicendo voi sono eccezionali. Addirittura su internet li ho visti placati in oro, vabbè visti sono da macchine, però li fanno anche placati in oro. E cinghioma, però sto dicendo se non valgono niente, cioè tu li paghi un euro ma non servono a nulla, neanche per saldarli vanno bene, quelli macchinisti almeno riesci a saldare e non si scioglie il coso, l'isolatore. Non tutti, guarda che a me Fusaro mi ha dati difettosi, mi chi ne si dovrebbe studiare la macchinista e ne si impara a puntare. L'uno ti scioglie, l'altro nasce scontento. Prima di saldarli devi tutto ripassare con l'attacco, altrimenti ti rimane in mano. Stanno guardando a Mondetta, stanno guardando a venditori di farfalle, sono qua. Posso vedere ogni anno andare in fiera a comprarmi tutti i bici, pezzoni già pronti, PL e tutto quanto. Vabbè, comunque fammi sapere a quanto lo trovi questo cavo. Poi io ho già chiesto, sì, ma fammi sapere tu a quanto lo trovi, a quanto te lo vanno, poi ti dico a quanto lo pago io. Come stai dicendo a fare? Sì. Tu da dove lo paghi? Io ho chiesto, dice da Grazie, ma Grazie non ne ha. Non ti preoccupare, fammi sapere a quanto lo trovi, poi te lo dico io. Prima di comprarlo, devo ordinarlo, poi ti dico quanto lo pago io. Io ho già trovato il cavo, sia la 300 che il 213, qua a Sassari. Capito? Tu mi dici quanto lo pago e poi ti dico io quanto lo pago. Io da Grazie ho chiesto stasera, ho telefonato e mi ha detto che c'ha solo il 213 normale, non il 1000. Il normale me lo dà 1,40€, 1,30€ anzi, e il 1000 1,60€. Fusaro di Littino costa 1,50€, diciamo, prezzo normale, non di Littino, prezzo che vende lui. Però un amico l'ha preso a 1,25€. Vabbè. Quando hai deciso e poi ti dico quanto lo pago io, sia il 1000 che il 213 la caccetta, sia il normale il 1000 la caccetta, tutte e tre, perché ci sono tutte e tre assassini. Siamo andato l'altro giorno qua, non mi ha fatto sapere, è quello che mi sono interessato io, te l'ho chiesto, ha detto sì sì e poi non mi ha detto niente, dice ti faccio sapere, io ho aspettato notizie da te, alla fine non ho avuto più notizie, allora mi sono interessato io, mica, cioè, dove costa di meno, se c'è possibilità di prenderlo di meno, come capisci che è sempre meglio, no? Ah beh certo, ah beh già, dobbiamo voluto vederci. No, ci sto entrando, dai, lo sto facendo l'altro, no. Cioè perlomeno non sto entrando qua, sto facendo l'altro, quindi no, mi sto solo ascoltando, ho sentito io notte il bel corsio di funerale che avevo fatto. Funerale? Che c'è? Stavo preparando i voti. Non mi ricordo. Ma con Gianni, come io e Gianni sono fatto? Ci sei tu Gianni, Mario, Luca. Di morti, no, abbiamo parlato di malattie forse, ma di morti cosa dire, di cadaveri o discorsi tristi? I discorsi un po' tristi avevamo. No, facciamo di morti, di funerali, di sede, vabbè purtroppo ieri è venuto un argomento un po' uscito, vabbè, certe volte non è bello, però molte volte ci sono anche quelli, no? Vabbè, fanno bene a voi. Va bene, ringraziate a Gianni, io non ti do. Gianni doppio rumo, se ci sei batti un colpo. Gianni Drumito, Gianni ci sei, ultima chiamata. Facci ne chiede già per l'alto. Aspetta, proprio sta radio. Aspetta. Ancora qualche giro di boa qui. ci sarà ancora meno gente. Ma non esistono i microfoni con vibrazione di pure i telefonini. Il minimo del microfono quando rimane la boccante rimane la vibrazione, così si scelta. Credo che riscende più facilmente già. Vabbè, che sto terminando il lavoro qua e sto praticamente sollevando ancora il piano, se non li faccio, quando sono libero non riesco a condurre niente, se anche devo andare anche dei cazzi. Ok, ci sentiamo e alle prossime, fatemi bene. Rispetto un colpo passeggero di solito. Tutto quando sei così che ti viene al suo momento, a voi tu, senza bisattimi, ti trombi. Io molte volte cerco di evitarlo e mi si copro direttamente. Ma non me lo fate con un sonno fresco di colpo, ti viene la stanchezza, capito? Non ti vengo di da me. Grazie a Dio così no, quando sono stanco stanco, molte volte sono sopra la televisione, mi siete anche nei luci, allora a quel punto mi addormento, bastano pochi minuti tu e poi mi risollevo. Però ultimamente la sonnolenza è molto più frequente. E poi anche uno scompenso magari, essendo diabetico, proprio uno scompenso di glicemia ti provoca il sonno. Sicuramente sì, non lo so, io non ho esperienza in materia, però so che quello influisce parecchio. Infatti, te lo dico, te lo confermo. Avanti Natalius. Poi Zanca, però io ho notato che c'è Morturio, mi sa tanto che tra un po' chiudiamo i battenti, che non ci sarà più nessuno qua. Ieri eravamo tutta la sera che stavamo parlando, c'era un sacco di gente, c'era una bella ruota e con Roberto siamo stati fino a mezzanotte, vero Roberto? Sì, sì, ma secondo me c'era ragione Claudio, non era dei più interessanti. La notte prima che abbiamo fatto le ore piccole, mi pare a luna, che ora era già? Beh, argomenti sono tutti interessanti, l'interessante è che siamo argomenti tranquilli e che non rompono le scatole a nessuno. Quello è vero. Le batterie mie uscendo con un watt se ne stanno andando, non so se ne ascoltate ancora. Ma ancora c'è già anche gente che ascolta e che le fa piacere ascoltare discorsi belli e interessanti, non discorsi tristi di musica. Se non le piace gira, ci sono altri canali. No, è così. Io non stavo dicendo niente di pornografico e di cose, io stavo parlando di cose che sentivo io, che erano esperienze mie. Poi se gli altri non vogliono sentire, ce ne sono tanti canali. Ma se ci siete solo voi qua, noi diciamo ascolto, ascoltiamo solo a voi. Dove vai a ascoltare? Siete in tre che se ne va vedendo in tre giri. Allora voi che avete tanti argomenti, entrate voi, vi proponete voi gli argomenti, visto che voi ne avete di migliori. No, io vorrei proporli da altre parti, io lo propongo qua. Mi piace ascoltare voi, se è possibile ascoltarvi, se no un paziente. Io parlo di argomenti tranquilli, di cosa? Sì, in effetti ieri non può mancare, ma stai parlando di Mattatoio. Di Mattatoio, bambù. Ma strano, ma io c'ero ieri sera, mi sembra. Ma ti stai riferendo, Claudio, a quello della Mattatoio, tu? Via, stavate parlando di malattie, della madre di Gianni, quell'altro, quell'altro ancora. Io quando è morto quello, quando è morto quell'altro. No, perché già adesso ho parlato della Mattatoio, no? L'argomento della Mattatoio era una cosa così. Non era Mattatoio, era un discorso serio e toccanti. Non era Mattatoio, nessuno sta dicendo che stava dicendo troppo. Ma per chi ascolta adesso sentire quei discorsi proprio non è che erano molto belli da ascoltare. Anche l'apparecchio, diciamo che c'hai degli umori diversi, però io non che si di umore buono e parli di cose allegre, ci sono delle cose che magari senti e nel momento e ti senti parlarne, non penso che abbia parlato di niente di male, anzi, sono argomenti da rispettare, non da criticare. Chiudi gli occhi già, stai sognando, non sei tu che stai parlando. C'ho con me due risenne, dei cazzo di risenne, cioè tu io le risenne già per amateci cosa. Cazzo, no, non fanno più, dai avanti in alta mia. Comunque, per concludere il discorso, Claudio. Dimmi. Una persona mi ha detto esattamente il contrario, ieri sicuramente era un argomento un po' triste e non è, diciamo, non è piacevole da ascoltare. Oggi ho sentito una persona, infatti non sapevo neanche che ascoltasse, mi ha detto, vi ho sentito il discorso che stavate facendo tu con un'altra persona, stavo riferendo a Natalino, quando stavamo, ti ricordi Natalino quando parlavamo di FM? Sì, me lo ricordo. Parlo di radio private, di oscillazioni di frequenza, eccetera, eccetera. Dice, sono stato veramente contento, ho lasciato la radio accesa perché era un argomento molto, molto interessante. E me l'ha detto anzi stamattina una persona. E non sapevo che ascoltasse. E parlando al discorso che ci sono molte persone che ascoltano e noi neanche conosciamo, oppure neanche ci immaginiamo. Ho sentito anche io qua. Tu sappi bene una cosa, che io quando non sono, non sto parlando qua su Cagli e ti sto ascoltando. Capito? Sono sempre ascolto io. Ti ho sentito, ti ho sentito. Certo che sì, che era un bel discorso. Era un bel quesciotto. Non si parlate se parla di bei quesciotti. Dico belli, non è che quello là era brutto, ho detto che era triste. Forse Gianni non mi capisce perché c'ha un occhio chiuso e l'altro aperto. Capito? Ho detto che era brutto, ognuno può parlare di quello che vuole, però era triste, capito? Ma per quello dell'altro giorno era un quesito tecnico che fa piacere ascoltare anche a me, capito? Soprattutto qua su questo canale, non sugli altri canali, anche perché dall'1 al 40 non c'è nessuno, siete solo voi, 2, 3, più o meno, stasera eravate in 2, ma non è che cambiamo 2, 3, 1 o 4, non cambia niente. Purtroppo questo discorso, Claudio, non è colpa nostra, cioè la frequenza a un certo momento si stava affopolando, a me da quando sono entrato io ho visto c'erano delle luci nuove, poi c'è stato un momento di calma, poi di nuovo, adesso siamo in un momento di calma, diciamo, sono sempre le solite persone, però più o meno vanno d'accordo, hanno degli argomenti, belli o brutti, però trovano il modo di dialogare. A me fare radio così non piace, Roberto, è chiaro, sono costretto a stare zitto. Se si parla di altro io stavo c'era in radio, non è che non c'ero. Ero nell'FD con Franco, con Marco, con Massimo, con altre persone che avevamo tecnicamente degli argomenti interessanti, quindi abbiamo una frequenza particolare dove non è facile disturbare, quindi eravamo lì che parlavamo, abbiamo smesso poco fa, però io c'avevo le cuffie qua sui canali 10. Io qualsiasi radio accendo che parlo, ho sempre le cuffie qua su canale 10. Sempre. Perché mi piace ascoltarvi, mi piace sapere com'è la situazione. Sono fatto così, cosa vuoi di fatto? È preferibile, scritto ti piace anche ascoltare, molte volte ci sono argomenti interessanti, inseriti anche tu, se ti fa piacere stare in compagnia di queste persone che stanno parlando adesso. Vabbè, mi fa piacere quando mi fa piacere di ascoltare. Posso anche essere un critico, però sono sempre qua che vi ascolto. Non è un problema quello. No, sto dicendo che a un passo fortunatamente ci sei molto di meno, tu vedrai se avrai altri impegni, però rispetto a prima ci sei molto di meno, non lo so per quale motivo, però saranno problemi tuoi. Però prima a un passo c'erano anche altre persone che non sento più come te che sentivo prima, alla fine ci stiamo riducendo, siamo sempre i soliti, c'è ragione, ci stiamo sempre su, forse siamo più attaccati a questo canale, non lo so, è un po' tu. Però ci ritroviamo, ne parliamo sempre di meno, però siamo i soli. Chiaramente gli altri che c'erano prima non ci sono più, o non gli piace la compagnia, non lo so. Vabbè, io ho già detto già l'altra volta che non voglio essere critico con nessuno. Evidentemente chi si è allontanato, chi preferisce ascoltare, preferisce così, quindi punto e basta. Cosa devo dire? Che non mi va di entrare perché non c'è argomenti. torno dicendo, cioè no, come fare la radio così non mi piace. Ci sono cose che si possono sviluppare, cambi di idee, eccetera, parlare di altre cose va bene, ma a me, quando parlate di pesca, quando parlate di terremoto, quando parlate di morti, quando parlate di cadaveri, o che tu sia andato, che la Lanteri ha vinto, che io sono sempre l'ascolto, non mi interessano, cosa entra a dirti, cosa, che qualsiasi devo fare, noi siamo... Stiamo passando il microfono e stiamo sempre dicendo le stesse cose. Noi andiamo a otto, no? Perché non c'è argomento, cosa... Stavo ascoltando poco fa con i cavi, ecco perché ho schiacciato la portata e ho detto chi te l'ha detto. Non ho capito niente di cazzo, perché ti ha detto delle fecerie assurde, capito? E quindi sono intervenuto e te l'ho detto. Se ci sono degli interventi da fare, li faccio, ma io non li faccio. No. Quando non sono argomenti, preferisco stare zitto. E come me quelle 10 persone che sono in ascolto, perché so benissimo che sono in ascolto. E stavamo parlando poco qua. Nelle PD quindi sono sicuramente tutti in ascolto. Solo che per me è troppo forte rimanere in ascolto e non ricriminare le cose che non mi vanno bene. Gli altri evidentemente ci fanno i cacchi loro. A me. Io sono andato per dare fastidio a radio e morirò dando fastidio. Va bene, dando un po' che pure muovo alla fine dentro la valla, contento di te. No, io baracchini non ne ho, caro Roberto, non ne ho, guarda, neanche uno, io tutti i miei ci dentro la casa li ho riportati su una massata perché non ne voglio avere anche uno, le mie radio sono già a testamento, perciò non credo che ci stiamo dentro la bara tutte, capito, però sono già a testamento. Cazzo, così te la dici così? Vabbè, ti metto una cassa dentro, cosa vuoi ti dire? No, è stato là. Quando muoio io queste, adesso sono già a testamento, non sto scherzando. Queste le sono già scritte dove devono andare. Perciò non c'è problema per questo. Lui quando è morto, un mio carissimo radioamatore ECB, perché l'ha conosciuto Angelo Plifo di Alghero, HTS, io personalmente assieme a tutti gli amici che l'abbiamo conosciuto, siccome lui quando usciva in macchina aveva sempre un TH78 acceso nella frequenza dove noi trasmettevamo ed era l'unico VHF che lui usava sempre, ce l'aveva sempre attaccato come telefonino, assieme al telefonino lui nel pantalone c'aveva questo VHF. Noi gliel'abbiamo acceso sulle stesse frequenze che lui modulava, gliel'abbiamo appeso al pantalone perché l'ho vestito io e tutti gli amici da Riamatori di Alghero, gliel'abbiamo acceso il VHF, gliel'abbiamo attaccato al pantalone e poi quando l'hanno chiuso è rimasto il VHF acceso dentro la barra, sarà ancora lì dentro credo. Mi stavo alla bassa, non avevo mai sentito storie del genere. Purtroppo le cose si fanno fatte bene, è stato un desiderio della moglie, noi abbiamo rispettato il desiderio della moglie, perciò siccome tu portati e baracchini non li tratto, lo però questa radio sul canale 10, però non è un baracchino, non vedo perché devo mettere questo 440 dentro la bara quando muoio, intanto mi sto toccando i coglioni. Stato, non ti arrabbiare. A proposito, adesso devo fare il testamento pure io, certo, devo video dove va, non sarà roba mia, a proposito. E suore, a chi la dai? La mia, io non ho problemi a dirlo, a chi deve andare la mia stazione radio. Se muori prima Edu, anche lo che lo devi dare. Sì, 772 ci hai fregato, capito? Adesso va tutto a... Andrea, ma pure se ti ricordi che sta 250 anni, Claudio, non ne parliamo di questi discorsi, dai. Stiamo ritornando a quel discorso che hai fatto prima tu, argomenti tristi, siamo a Muganare. Ma infatti vedi, ci arriva poi a cose tristi, quindi lasciate stare molti a persone che stanno bene. Va bene, vedi Gianni non ha problemi, poche radio. Ne fa quello che vuole, mi lascia Marco. Dai, ci sei. Aspetta che ce la vanno occupata. Ah, se mi sta toccando. Infatti io quando stavi parlando dei morti l'altro giorno c'avevo la mano in mezzo alle gambe. Io ci penso al computer, guarda, dice Rotten, come ha fatto la www.rotten.it? È meglio che non ci vada lì, almeno lì sono virtuali, ma è meglio che non ci vada lo stesso. Io li visto al vero, però è quello il brutto. Non ho sentito che mi interessa mai quello, assolutamente non sono cose che mi riguardano. Non sai quanto mi ha preso per riparare il 140 Natale. No. Ma chi, quell'amico nostro? Eh? E buono, non so cosa abbia detto, il 140 è andato da pigliato. Ma sicuramente ti ha preso poco perché lo conosco e bravo pure quello. Soprattutto perché siamo molto molto amici. Vero, c'erano due frontate, capito? Adesso domani le porto questo, per fare un'altra modifica e attacco quello là e faccio andare un po' quello lì. Due frontate, capito? Adesso ho messo in vendita tre, tre di radio ho messo in vendita. 940, 920 e 901. Sto prendendo il 9000 Natale. Quello è bello. Aspetti 9000. Ma mi sono dovuto aiutare, se non ce la faccio. 940, mio malgrado, purtroppo dopo tanti anni va via. E 920 con la 901 DM, cioè 902 DM. Così arriva questo, 940 l'ha già venduto, 940 l'ha già venduto, ma se ci sono gli altri due da vendere, vediamo un po' se ce la facciamo. Andati su da solito, trick e track, vediamo se in fiera riesce a venderlo, mi manderà quello là. Era Roberto così, hai visto, anche il Milan fuori dalla Coppa. Sono contentissimo, almeno questi antichi ventini la finiscono non per le palle. Agustin, vabbè, è stata una squadra italiana, purtroppo oggi non meritava, l'altra sarà andata la partita, non oggi. No, l'ho persa anche oggi, è che non è fatto nulla, non è fatto la stessa partita dell'andata, uguale, precisa identica. Molte occasioni, ma la palla deve entrare in rete, quindi. Cos'è convinto che Inzaghi lo lasciava la giura, c'è uno squadrone l'Arsenal, cioè il Barcellona, e l'Arsenal la stessa cosa, hai visto l'Arsenal vinto lo stesso, ma io vado diretto a te, la finale sarà Barcellona-Arsenal, e lei uscì, hanno dimostrato di essere superiore alle squadre italiane e superiore a tutte le altre. Vabbè, tu sei andata, pazienza, cosa ti dico? Importante che vinciamo il mondiale, dai, mi accontento del mondiale. Ma col mondiale vinciamo. Speriamo che sia al contrario di quello che stai dicendo tu. Io me lo auguro, non è facile, però ce la possiamo fare, la squadra se giochiamo. Allora vinciamo il mondiale, no? Il mondiale lo vincono sempre loro, è un bravo. Brasiliani sono brasiliani, non c'è niente da fare, sanno giocare al calcio. E hanno inventato il calcio, purtroppo è uscito. Lo dico con molta tristezza, ma la realtà è quella. Hanno un altro tipo di gioco. E giocano a pallone. E giocano per vincere soprattutto, con una mentalità vincente. Non con una mentalità di fare punteggio. Sì, più spettacolare, sono noi il calcio più tattico, più studiato, però molte volte abbiamo vinto con la tattica, no? Quello è vero, sì, però diciamo loro tecnicamente sicuramente sono superiori, però vanno l'organizzazione che c'ha il calcio italiano non ce l'hanno. Noi molte volte siamo a sopperire con l'organizzazione alle carenze tecniche. Speriamo che questa volta vada un po' meglio perché la nazionale è forte. Ed è paragonabile al Valentino, non dico che sia più forte, però è paragonabile. Hai detto bene, paragonabile buffalo. Vabbè. Dai, vi saluto, statemi bene. seguite pure che ho ritirato tutta la roba qua che stavo cambiando un po' i boxi per le radio. Ti prego, tra gli anni. Buonanotte. Quindi da ieri mi avevo ancora che sono visto un po'. Buonanotte a te. Neanche con un watt perché la batteria è fissa, l'indicatore di scarica. Quindi vi saluto a tutti, ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Natalina e tutti quelli che sono all'ascolto. Alla prossima, ciao a tutti. Buonanotte a tutti, ciao ciao. Buonasera a tutti, da.